La Coupe, ovvero la Valle delle Fate, di George Sand. Il figlio del principe ha voluto proseguire nella sua passeggiata molto in alto sulla montagna e il suo precettore l'ha seguito. Il bambino ha voluto vedere da vicino le distese di neve e di ghiaccio che non si sciolgono mai e il suo precettore non ha osato impedirglielo. Il bambino si è messo a giocare con il suo cane sul bordo di un crepaccio del ghiacciaio. È scivolato, ha gridato, è scomparso. E il suo precettore non ha osato seguirlo. Il cane, invece, si è lanciato nell'abisso profondo per salvare il bambino e anche il cane è scomparso. Per alcuni minuti, sembrati lunghi come ore, si sono uditi i guaiti del cane e le grida del bambino. I suoni che si andavano tuffando nel profondo sconosciuto si avvertivano sempre più remoti, poi si è teso vanamente l'orecchio. Il profondo era diventato muto. Allora i servi del principe e i pastori della montagna hanno cercato di calarsi nell'abisso con delle corde, ma essi non hanno visto che il crepaccio dei verdi riflessi sprofondarsi sempre più in basso e diventare sempre più ripido. Essi hanno invano rischiato la vita, alla fine sono andati a riferire al principe che cosa avevano fatto. Il principe li ha fatti impiccare per aver lasciato morire suo figlio. Ha anche ordinato di tagliare la testa più di 20 nobili che potevano avanzare pretese sulla corona e che certamente avevano sottoscritto un patto con gli spiriti della montagna per far morire l'erede al trono. Quanto a Bonus, il precettore, si è fatto scrivere su tutti i muri che sarebbe stato arso sul rogo a fuoco lento, e vedendo ciò egli è fuggito così in fretta che non è stato in alcun modo possibile acciuffarlo. Il bambino ha avuto tanta paura e tanto freddo nella profondità del ghiacciaio. Il cane non ha potuto impedirgli di scivolare sempre più in basso, ma tenendo stretta fra i denti la sua cintura gli ha impedito di scivolare troppo in fretta e di sfracellarsi contro i ghiacci. Trascinato dal peso del bambino, il cane ha opposto così viva resistenza ad avere le zampe sanguinanti e le unghie quasi del tutto consumate. Tuttavia non ha lasciato la presa e quando infine cane e padrone hanno trovato una cavità dove fermarsi, il cane si è disteso sul bambino per riscaldarlo. Erano entrambi così stanchi che si sono addormentati. Al risveglio si sono trovati di fronte un'immagine di donna così piena di bellezza e di grazia che non hanno più saputo che cosa fosse accaduto loro. Indossava una veste del candore della neve e lunghi capelli d'oro fino l'avvolgevano luminosi come fiamme vive. Ella ha sorriso al bambino senza però parlargli e prendendolo per mano lo ha condotto fuori dal ghiacciaio, guidandolo in una grande valle selvaggia dove il cane zoppicando li ha seguiti. Nascosta in una piega profonda della montagna, questa valle è sconosciuta agli uomini. Essa è protetta dalle impervie pareti di roccia e dai ghiacciai impenetrabili. È, insieme, spaventosa e ridente, come del resto le creature che la popolano. Sui suoi fianchi le aquile, gli orsi, i camosci hanno celato i loro ricoveri. Sul fondovalle regna, invece, un tepore diffuso. Fioriscono gli alberi più belli. Qui le fate hanno stabilito la loro sede ed è alle sue sorelle che la giovane Zilla sta conducendo il bambino trovato sulle pareti glauche del ghiacciaio. Quando il bambino ha visto gli orsi passargli accanto ha avuto paura e il cane ha tremato e ringhiato, ma la fata ha sorriso e gli animali selvatici si sono scostati per cederle il passo. Quando il bambino ha visto le fate, gli è venuta voglia di ridere e di parlare, ma esse l'hanno fissato con occhi così intensamente luminosi che si è messo a piangere. Zilla, allora, prendendolo sulle ginocchia, se lo è stretto al petto e alle fate è montata la collera e la più vecchia, così le si è rivolta in tono minaccioso. Ciò che tu fai è vergognoso. Mai una fata che si rispetti ha accarezzato un bambino. I baci di una fata sono per le colombe, i giovani cerbiatti, i fiori, le creature graziose e inoffensive. L'animale impuro e malvagio che tu ci conduci insudicia le tue labbra. Noi non lo vogliamo qui E quanto al cane, non ne sopporteremo meglio la vista. È l'amico dell'uomo, gli stessi istinti di distruzione e le stesse abitudini di rapace. Riporta queste creature dove le hai trovate. Zilla, ha risposto la vecchia trollia, siete così dura e cattiva da sembrare nata da una vipera o da un avvoltoio. Non vi ricordate di essere stata donna prima di diventare fata? E vi è forse consentito di odiare e disprezzare la razza d'onde venite? Quando sugli ultimi altari dei nostri antichi dei avete bevuto la pozione magica che ci ha rese immortali, non avete forse giurato di proteggere la famiglia degli uomini e di vegliare sulla loro discendenza? Per contro, la vecchia troglia, sì, ho giurato, come voi, di mettere la scienza dei nostri padri e delle nostre madri al servizio della felicità dei loro discendenti, ma gli uomini ci hanno prosciolte dal nostro giuramento. Come ci hanno trattate? Si sono votati a nuovi dei e ci hanno chiamate streghe o demoni. Ci hanno scacciate dai nostri santuari, distruggendo le nostre sacre dimore, bruciando le nostre antiche foreste, rinnegando le nostre leggi e schernendo i nostri misteri. Sono loro ad aver infranto i legami che ci univano alla loro razza maledetta. Per mio conto, semmai mi sono pentita d'essermi sottratta con la pozione magica alla signoria della morte. È per il pensiero d'aver perduto il potere di darla agli uomini. Una volta, grazie alla nostra scienza, potevamo giocare con la morte, accelerarla o differirla. Ormai essa fugge da noi e ride di noi. La stessa vita implacabile che ci possiede ci condanna a rispettare la vita. È una grande fortuna che noi non si sia più costretti a uccidere per vivere, ma è anche una grande disgrazia l'essere obbligate a lasciar vivere ciò che si vorrebbe vedere morto. Nel pronunciare queste parole crudeli, la vecchia maga ha alzato il braccio come per colpire il bambino, ma il braccio le è ricaduto senza forza. Il cane si è slanciato contro di lei e ne ha lacerato la veste, disseminata di macchie nere, di cui si dice che siano la traccia rimasta del sangue umano versato un tempo nei sacrifici. Il bambino, che non ha compreso le sue parole, ma che ha visto il suo gesto orribile, ha nascosto il viso nel seno della dolce Zilla, e tutte le fate giovani hanno riso pazzamente della rabbia della strega e dell'audacia del cane. Allora, le vecchie hanno rimproverato e insultato le giovani, e sono state spese così tante parole che gli orsi hanno grugnito irritati nelle loro caverne, e tante grida, minacce, beffe, risate, imprecazioni si sono levate al cielo, che le cime più alte hanno scosso i loro cappucci di neve sugli alberi della valle. Allora è arrivata la regina ed è tornato subito il silenzio, perché la regina delle fate può, si dice, privare del dono della parola chi ne abusa. E perdere la parola è ciò che le fate temono di più. La regina è giovane, come il giorno in cui ha bevuto alla coppa, perché, procurandosi l'immortalità, le fate non possono né invecchiare né ringiovanire, e tutte si fissano come sono in quest'attimo supremo. Così le giovani sono sempre impulsive o allegre, le mature sempre serie o malinconiche, le vecchie sempre decrepite o rabbiose. La regina è grande e fresca, è la più forte, la più bella, la più dolce e la più saggia delle fate. E anche la più sapiente, lei che in passato ha scoperto il grande segreto della coppa dell'immortalità. Troglia, attacca a dire, la tua collera non è che rumore inutile. Gli uomini valgono quello che valgono e sono quello che sono. Odiare è del tutto contrario alla saggezza. Ma tu, Zilla, tu sei stata pazza a condurre qui questo bambino. Con che cosa lo farai vivere? Non sai che bisogna che respiri e che mangi alla maniera degli uomini? Gli permetterai di uccidere gli animali? O di contendere loro l'uovo, il latte e il miele? O anche solo le piante che costituiscono il loro cibo? Non vedi che insieme con lui tu fai entrare la morte nel nostro santuario? Regina, risponde la giovane fata, la morte non regna forse qui come altrove? Abbiamo forse potuto bandirla dai nostri occhi, e dal momento che le fate non la infliggono, dal momento che la fragranza dei fiori basta nutrirle, dal momento che il loro passo leggero non può schiacciare un insetto, nel loro respiro etereo assorbire un atomo di vita dalla natura. Da tutto ciò deriva forse che gli animali non si divorano e non si annientano gli uni con gli altri? Che importanza ha se fra queste creature, di cui la vita non trae nutrimento che dalla distruzione, io ne conduco due in più qui. Il cane te lo concedo, dice la regina, ma il bambino porterà in questa valle la consapevolezza del dolore e la tragedia della morte. Ucciderà con intelligenza e premeditazione, ci metterà davanti agli occhi uno spettacolo atroce. Aumenterà il desiderio di uccidere e il sentimento dell'odio che albergano già in alcune di noi, commettendo atti che per noi sono detestabili. Turberà la purezza dei nostri sogni. Se tu te ne prendi cura, Zilla, cerca di modificare la sua natura terribile, o dovrò portartelo via e abbandonarlo fra le nevi, dove la morte verrà a prenderlo. La regina non ha aggiunto altro. Ella consiglia, non impartisce ordini. Così si allontana e le fate si disperdono. Ne resta qualcuna con Zilla per interrogarla. Che cosa vuoi dunque fare di questo bambino? È bello, d'accordo, ma tu non puoi amarlo. Vergine sacra, tu hai già pronunciato il voto terribile. Tu non hai conosciuto né sposo né famiglia. Nessun ricordo della vita mortale ti ha lasciato il rimpianto e il sogno della maternità. Del resto, l'immortalità libera da queste debolezze, e chiunque ha bevuto la coppa ha dimenticato l'amore. È vero, risponde Zilla, e ciò che io sogno per questo bambino non ha nulla a che vedere con i sogni della vita umana. Per me è solo una curiosità, e mi meraviglio che voi non condividiate il divertimento che mi procura, dopo tanti secoli che noi abbiamo rotto ogni legame di amicizia con la sua razza. Noi non la conosciamo che dalle sue opere. Sappiamo bene che la razza degli esseri umani è diventata più abile e più sapiente. I loro lavori e le loro imprese ci riempiono di meraviglia, ma noi non sappiamo se essa è per questo migliore e se i suoi malvagi istinti sono cambiati. Vuoi dunque vedere ciò che diventerà? Il cucciolo, isolato dai suoi simili? E abbandonato a se stesso, o istruito da te nel nostro eccelso sapere? Provaci, noi ti aiuteremo a guidarlo e a osservarlo. Ricorda soltanto che è fragile e che non è ancora malvagio. Dovrai dunque prendertene cura meglio che dell'uccellino nel nido. E ti sei presa un fardello pesante, Zilla. Tu sei dolce e amabile, ma sei più capricciosa che ferma di propositi. Ti scioglierai da questo legame. E forse faresti meglio da subito a non fartene carico. Parlavano per gelosia, perché il bambino piaceva loro e più d'una avrebbe voluto prenderlo per sé. Le fate non amano col cuore, ma il loro spirito è pieno di intensa e ingenua curiosità. Si annoiano, e ciò che giunge dal mondo degli esseri umani, dove non osano più penetrare apertamente, è per loro motivo di agitazione e di meraviglia. Un giocattolo, un animale domestico, un orologio, uno specchio, tutto quello insomma che non sanno fare, tutto quello di cui non hanno bisogno, le affascina e le attrae. Le fate disprezzano profondamente l'umanità, ma non possono fare a meno di pensarci e di farne costantemente oggetto di conversazione. Il bambino faceva loro girare la testa. Qualcuna si sarebbe accontentata anche del cane, ma Zilla era gelosa delle sue prede e, vedendosele un po' troppo contese, le portò in una grotta lontana dal santuario delle fate e mostrò al bambino la fascia di bosco che non doveva oltrepassare senza il suo permesso. Il bambino pianse, dicendole: «Ho fame!» E quando ella l'ebbe nutrito, vedendo che stava per lasciarlo, le disse: «Ho paura!» Zilla, che aveva trovato il bambino vorace, lo trovò a questo punto stupido e, non volendo diventare sua schiava, gli mostrò dove le caprette allattavano i piccoli, dove le api nascondevano gli alveari, dove le anatre e i cigni selvatici deponevano le uova, e gli disse: «Cerca da te il tuo cibo. Nasconditi anche tu per impadronirti furtivamente di queste cose, perché gli animali diverrebbero timorosi o cattivi e le vecchie fate non amano veder cambiamenti nelle consuetudini della vita». Il figlio del principe fu molto sorpreso di dover cercare da solo un pasto così magro. Mise il broncio e pianse, ma la fata non ci fece caso. Non ci fece caso, perché conservava un ricordo assai vago dei pianti della sua infanzia e comunque le sembrava di ricordare che questi pianti non esprimessero per lei una sofferenza in qualche modo profonda. Se ne andò alla celebrazione del sabato. Il giorno dopo il bambino ebbe fame e smise di essere imbronciato. Il cane, che invece era sempre allegro, catturò una lepre e la mangiò così com'era. In capo a 3 giorni il bambino pensò che avrebbe potuto facilmente raccogliere della legna secca, accendere il fuoco e far cuocere la selvaggina presa dal cane, ma siccome era pigro, si accontentò dell'altro cibo alla sua portata e lo trovò buono. In poco tempo dimenticò che gli uomini fanno cuocere la carne e vedendo che il suo cane la mangiava cruda con gusto e soddisfazione, provò ad assaggiarla e si saziò in questo modo. Quando la fata Zilla ritornò dal concilio delle fate, trovò il bambino ben pasciuto e fresco, ma inselvatichito e sudicio. Aveva i denti bianchi e le mani insanguinate, lo sguardo opaco e torvo, quasi non sapeva più parlare. Stanco di chiedersi dove fosse capitato e perché la sua sorte fosse così cambiata, non pensava più che a mangiare e a dormire. Il cane, al contrario, era lustro e in piena forma. La sua intelligenza si era affinata nella devozione dell'amicizia. La fata fu tentata di abbandonare il bambino e di portarsi via il cane, ma poi si ricordò degli eventi passati e decise di civilizzare il bambino a modo suo. Ma bisognava decidersi a parlargli ed ella non sapeva che cosa dirgli. Conosceva bene la sua lingua. Non era infatti nel numero delle fate più ignoranti, ma non aveva la minima idea degli argomenti che si possono proporre a un bambino per cambiare i suoi istinti. Tuttavia ci provò. Per incominciare gli disse: "Ricordati che appartieni a una razza inferiore alla mia." Il bambino si ricordò chi era e le rispose: "Vuol dire allora che tu sei imperatrice, perché io sono un principe?" La fata continuò: "È mia intenzione renderti più grande di tutti i re della terra." Il bambino rispose: "Restituiscimi a mia madre che mi cerca." E allora la fata: "Dimenticati di tua madre e disponiti a non ubbidire ad altri che a me." Il bambino ebbe paura e non le rispose. "Io voglio renderti," riprese la fata, "saggio e felice, e innalzarti al di sopra della natura umana." Il bambino mostrò di non capire. La fata allora tastò un altro argomento. Gli disse: "Tu ami tua madre?" "Oh, sì," rispose il bambino. "Vuoi amare me come ami lei?" "Sì, se anche voi mi amate." "Che cosa mi chiedi?" disse la fata sorridendo di fronte a tanta audacia. "Io ti ho salvato dal ghiacciaio dove saresti morto. Io ti ho difeso contro le vecchie fate che mostravano di odiarti e nascosto qui dove loro non pensano più a te. Ti ho anche dato un bacio, benché tu non sia un mio simile. Non ti pare già molto? Tua madre avrebbe potuto fare di più?" "Sì," disse il bambino. "Lei mi abbracciava tutti i giorni." La fata abbracciò il bambino, che ricambiò l'abbraccio, dicendole: "Com'è fredda la tua bocca." Le fate sono giocherellone e puerili, come le persone che non hanno niente da fare con il loro corpo. Zilla cercò di far correre e saltare il bambino. Era agile e deciso. In un primo momento provò a piacere a gareggiare con lei, ma ben presto vide cose straordinarie. La fata correva veloce come una freccia, le sue esili gambe non conoscevano la fatica e il bambino non poteva tenerle dietro. Quando ella lo invitò a saltare, volle, per dargli l'esempio, superare la spaccatura di una roccia, ma troppo forte e troppo sicura di non farsi del male atterrando, saltò così in alto e così lontano che il bambino, spaventato, andò a nascondersi in un cespuglio. Ella decise allora di allenarlo al nuoto, ma il bambino ebbe paura dell'acqua e chiese una barchetta, cosa questa che fece ridere la fata, e lui, vedendo che lo prendeva in giro e che le era di troppo inferiore, le disse che non la voleva più come madre. Ella lo trovò debole e poltrone. Per qualche giorno si dimenticò di lui, ma siccome le sue compagne le chiedevano che cosa fosse diventato e la rimproveravano di averlo preso per capriccio e di averlo lasciato morire in un angolo remoto, corse a cercarlo e mostrò loro che stava perfettamente bene. «Va bene», disse la regina, «visto che egli sa cavarsi d'impaccio senza causare troppi fastidi, io consento che egli resti qui come un animale che vive alla maniera di tutti gli altri, perché io vedo che tu non sapresti fare niente di meglio». Zilla capì che nelle parole della saggia e buona regina c'era un rimprovero nei suoi confronti e se ne fece un punto d'onore. Ritornò tutti i giorni dal bambino, trattenendosi sempre più tempo presso di lui. Gli insegnò a parlare con dolcezza, lo accarezzò un po' più spesso, fu un po' più accondiscendente nel farlo giocare, valutando di volta in volta le sue forze ed esercitando il suo coraggio. Gli insegnò anche a nutrirsi senza versar sangue e vide che lo si poteva educare perché si annoiava a restar solo e per farla rimanere con lui obbediva a tutte le sue richieste e si mostrava a sua volta in atteggiamenti teneri e affettuosi che lusingavano l'amor proprio della fata. Così si avvicinava l'inverno. E benché il bambino non se ne desse affatto pensiero, benché giocasse con la neve, che guadagnava sempre più terreno nella grotta dove la fata l'aveva ricoverato, il cane cominciava ad abbaiare e ringhiare contro questa neve usurpatrice che ogni giorno avanzava insensibile. Zilla capì che occorreva spostare il bambino di lì se non voleva vederlo morire. Così lo portò nel punto più protetto della valle e pregò le sue compagne di aiutarla a costruire una casa per lui, perché è sbagliato credere che le fate sappiano far tutto con un colpo di bacchetta magica. Esse sanno fare solo quello che serve loro e per loro una casa è inutile, hanno sempre caldo o freddo nella misura giusta perché stiano bene. Saltano e danzano un po' più d'inverno che d'estate, senza peraltro provare mai dolore né fisico né morale. Saltellano sulla neve altrettanto volentieri che sui teneri prati di primavera e se hanno voglia di sentire in gennaio il tepore d'aprile, si coricano a fianco degli orsi addormentati nelle loro caverne di neve dove anche le fate dormono per il piacere di sognare, perché esse hanno ben poco bisogno di sonno. Zilla non osò portare il bambino a contatto con gli orsi. Non sono cattivi, ma continuando ad annusarlo e a leccarlo avrebbero potuto trovarlo buono. Le giovani fate, che invitò a costruire l'alloggio, acconsentirono ridendo e si misero all'opera, facendo una gran confusione e un gran rumore. Volevano che l'alloggio fosse un palazzo più bello di tutti quelli che costruiscono gli uomini e che non assomigliasse in nulla alle loro misere invenzioni. La regina sedette a guardarle senza dir niente. Una voleva che fosse molto grande, un'altra molto piccolo, una che sembrasse una sfera, un'altra che terminasse con un tetto a punta, una che si adoperassero solamente delle pietre preziose, un'altra che fosse realizzato con i ciuffi vaporosi del fiore di cardo, una che fosse aereo come un nido, un'altra che fosse scavato come una tana. Una portava rami d'albero, un'altra della sabbia, una della neve, un'altra dei petali di rosa, una dei piccoli ciottoli, un'altra esili fili d'erba, la maggior parte non portava che parole. La regina vide che non combinavano niente e che la casa non sarebbe mai stata nemmeno incominciata. Ella chiamò il bambino e gli disse: «Non sapresti costruire la tua casa da solo? È un lavoro da uomini». Il bambino ci provò. Aveva ben visto costruire delle case. Andò a cercare delle pietre, fece, come poteva, un impasto di creta, tracciò un perimetro quadrato e innalzò dei muri diritti, segnò le divisioni interne, intrecciò dei rami, fece un tetto di canne e arredò la casa con qualche pietra per ripiano e un letto di felci. Le fate in un primo tempo si meravigliarono dell'intelligenza e dell'industriosità del bambino. Poi lo derisero, dicendo che le api, i castori e le formiche lavoravano molto meglio. La regina le rimproverò in un tono come questo: «Vi sbagliate! Le specie che si danno per istinto un'organizzazione sociale sono meno intelligenti di quelle i cui animali possono vivere da soli. Un'ape muore quando non può tornare all'alveare. Se un gruppo di castori viene disperso, questi animali dimenticano l'arte di costruire e si accontentano di tane grossolane. In società organizzate di questo tipo non c'è l'individuo, non si dice mai io. Queste creature che vivono sulla base di una tradizione misteriosa che si tramanda dal gruppo al singolo, senza che nessuno vi apporti il benché minimo cambiamento, sono inferiori anche all'essere più misero e sprovveduto che abbia però uno spirito capace di ricercare e di combinare dati diversi. È per questo che l'uomo, nostro antenato, è il primo fra gli animali ed è per questo che il suo lavoro, sempre diverso e sempre sottoposto al cambiamento, è il più bello di tutti. Guardate che cosa sa fare sulla base della memoria, come sa farsi un'esperienza nuova, come sa adattare ai suoi bisogni i materiali più grossolani. Allora l'essere umano, disse Zilla, sarebbe dunque migliore e più abile se vivesse isolato? No, Zilla, all'essere umano serve una vita sociale che sia frutto di una scelta, non la convivenza forzata con i suoi simili. Solamente può lottare contro tutti e tutto là dove gli altri animali soccombono. Trionfa grazie alla forza del suo spirito, ma prova il desiderio di una felicità diversa da quella che gli viene dalla conservazione del suo corpo. E questa è la ragione per cui cerca il contatto coi suoi simili, per avere da loro il cibo dell'anima e il bisogno che ha degli altri è ancora una forma della sua libertà. Zilla si sforzò di capire la regina, che le altre fate non capivano proprio. Esse avevano mantenuto le idee un po' primitive del tempo in cui erano simili a noi sulla terra, e se la loro scienza le faceva penetrare meglio di un tempo, e meglio di noi, nelle leggi del perenne rinnovamento del grande universo, esse non si rendevano più conto del cammino seguito dalla razza umana, in questo piccolo mondo dove loro si annoiavano per non potervi cambiare nulla, e se non avevano voluto cambiare nemmeno se stesse, e così se ne consolavano disprezzando ciò che cambia. Zilla, molto pensierosa, decise di procurare al figlio adottivo tutto ciò che poteva desiderare per vedere che cosa avrebbe saputo farsene. Ecco costruita la tua casa, gli disse. Che cosa vuoi per abbellirla? Vorrei mia madre, disse il bambino. Cercherò di portartela, rispose allora la fata, e sapendo che poteva fare cose molto difficili, partì, dopo aver messo il bambino sotto la protezione della regina. Partì per il mondo umano, lasciandosi trasportare dal torrente. Questo torrente, che dà origine a un gran fiume di cui gli esseri umani non conoscono la sorgente, esce dal ghiacciaio dove era caduto il figlio del principe. Si divide in 1.000 rivoli d'argento per irrigare e fertilizzare la valle delle fate. Poi le acque si ricongiungono all'ingresso di un enorme massiccio roccioso che costituisce la barriera naturale del loro reame. Là il torrente, diventato fiume, è inghiottito da forre spaventose. Si inabissa in caverne dove non giunge mai la luce e di salto in salto arriva per vie sconosciute al paese degli umani. Le fate, per le quali non esistono luoghi inaccessibili, possono uscire dalla loro sede, dalle cime nevose, dai crepacci dei ghiacciai o dalle spaccature della roccia, ma esse preferiscono lasciarsi trasportare dalla corrente del fiume, che, trascinandole negli abissi, non fa loro più male di un fiocco di schiuma. In pochi istanti, Zilla si trovò nei campi coltivati e si avvicinò a un villaggio di pastori e di boscaioli, dove vide un uomo stranamente vestito che in piedi su una grande pietra parlava alla folla. Egli diceva: Sudditi e vassalli, pregate per la granduchessa che è morta ieri e pregate anche per l'anima di suo figlio Ermanno che è morto l'anno scorso tra i ghiacciai del Monte Maledetto. La duchessa non ha potuto darsene pace. Dio l'ha chiamata a sé. Il duca vi manda del denaro in dono perché voi preghiate per entrambi. E l'araldo gettò oro e argento ai pastori e ai boscaioli, che si picchiarono per raccoglierlo e ringraziarono il cielo per la morte che procurava loro questo ben di Dio. Anche la fata fu contenta della morte della duchessa. Ah, il bambino non mi tormenterà più, pensava, affinché io lo renda a sua madre. Gli porterò qualcosa per consolarlo. E cadendole l'occhio su un sacco di grano, gli fece segno di seguirla, e il sacco di grano, obbedendo al potere misterioso che era in lei, la seguì. Un po' più in là vide un asino e gli ordinò di portare il sacco di grano. Prese anche con sé un piccolo aratro, pensando, dato quello che vedeva fare attorno a sé, che questi giocattoli sarebbero piaciuti al piccolo Ermanno. Ma non erano le cose che gli umani che aveva sotto gli occhi apprezzavano di più. Li vedeva ancora battersi per le ultime monete rimaste in terra. Seguì l'araldo che si allontanava su una mula bianca carica di una gran borsa piena d'oro ed argento, destinata a testimoniare in una forma di concreta generosità la devozione del duca per i suoi cari scomparsi. Ella fece un cenno alla mula che seguì l'asino e l'aratro, e l'araldo non ebbe modo di fare la guardia al tesoro. La fata infatti aveva gettato su di lui e sulla sua scorta un incantesimo che li fece dormire a cavallo per più di 15 leghe. La fata non si fece alcuno scrupolo di rubare queste cose. Erano per il figlio del principe e tutto in quel regno apparteneva a lui. D'altra parte, le fate non riconoscono le nostre leggi e non condividono le nostre idee. Ci considerano i peggiori predoni della creazione e quello che rubiamo alla natura pensano di avere il diritto di riprenderselo da noi. Visto però che esse non hanno affatto bisogno delle nostre ricchezze, è giusto dire che non ci fanno poi un gran torto. E tuttavia i loro capricci sono dannosi. Esse hanno fatto mettere in prigione più di un malcapitato accusato dei loro furti. Seguita dal suo bottino, Zilla ritornò ai piedi della montagna e, conoscendo un passaggio nella foresta dal quale poteva rientrare nella valle delle fate, con il suo curioso seguito, si addentrò nel folto dei pini e dei larici. Là si fermò, sorpresa, imbattendosi in un essere strano che le procurava un certo disgusto. Era un uomo vecchio, alto e magro, barbuto come una capra e calvo come un uovo, con un enorme nasone e un abito nero tutto strappato. Sembrava morto, perché un avvoltoio era appena piombato su di lui e iniziava il suo pasto dalle mani del vecchio, ma sentendosi aggredito, il moribondo lanciò un grido, afferrò l'uccello e, soffocandolo, gli addentò il collo e si mise a succhiare il sangue con una violenza rabbiosa e grottesca. Era la prima volta che la fata vedeva una cosa simile, un avvoltoio mangiato da un cadavere. Pensò che doveva essere un avvenimento fatidico di sua competenza e domandò al vecchio che cosa lo spingesse ad agire così. «Buona donna», rispose questi, «non traditemi. Io sono un ricercato che si nasconde e la fame mi ha prostrato a terra sfinito e in fin di vita, ma il cielo mi ha inviato quest'uccello di cui io mi nutro mentre non ha ancora cessato di vivere, come voi vedete, non avendo la possibilità di cibarmene in modo meno selvaggio». Questo povero infelice credeva di parlare a una vecchia raccoglitrice di legna, perché se non è provato che le fate possono assumere tutte le forme, è invece certo che esse possono produrre tutte le allucinazioni che vogliono. «Alzati e seguimi», disse la fata. «Io ti condurrò in un luogo dove potrai vivere senza che gli uomini ti scoprano mai». Il proscritto seguì la fata fino a un sentiero incassato nella roccia, così stretto e terrificante che l'asino e il mulo arretrarono spaventati. Ma la fata fece loro un incantesimo ed essi passarono. Quanto all'uomo, il suo desiderio di sfuggire a quelli che lo inseguivano era così forte che non fu affatto necessario agire sulla sua vista con un incantesimo. Seguì gli animali e nel momento stesso in cui mise piede nella valle delle fate, riconobbe nella sua guida una fata di prim'ordine. «Io non sono uno sprovveduto e un ignorante», le disse, «e ho studiato abbastanza la magia per capire ciò che mi sta capitando. Mi state portando in un luogo dal quale non uscirò mai, anche se voi lo vorrete, lo so bene. Ma qualunque sia la sorte che mi riservate, non può essere peggiore di quella che mi riserverebbero gli uomini. Obbedisco dunque, senza aggiungere parola, sapendo bene del resto che ogni resistenza sarebbe inutile. Forse avrete un po' di pietà per un vecchio e qualche curiosità di vederlo morire di una morte dignitosa che non tarderà di certo a venire. Tu ti vanti di essere sapiente e sei uno sciocco, rispose Zilla. Se tu conoscessi le fate, sapresti che non possono commettere alcun male. Il grande spirito del mondo non ha loro consentito di acquisire l'immortalità se non a condizione che rispettassero la vita. Altrimenti la vostra razza non esisterebbe più da gran tempo. Seguimi e smettila di dire sciocchezze, o in caso contrario ti riporterò dove ti ho trovato. Dio me ne scampi, pensò il vecchio, e assumendo un atteggiamento più umile, giunse con la fata alla nuova dimora del piccolo principe Ermanno. Per un intero giorno dalla partenza della fata, il bambino, che era d'animo sensibile, non aveva né lavorato, né giocato, né mangiato. Aspettava sua madre e non pensava ad altro che a lei. Quando vide arrivare il vecchio, gli corse incontro, credendo che annunciasse e precedesse la duchessa. Maestro Bonus, siate il benvenuto, gli disse, e ricordandosi del cerimoniale di corte, gli porse la mano da baciare. Ma il povero vecchio per poco non prese un colpo, ritrovando il bambino che mai avrebbe creduto di rivedere, e pianse di gioia, abbracciandolo come se fosse stato il figlio di un popolano. Allora la fata comunicò al bambino che sua madre era morta, senza pensare che gli avrebbe così procurato una grande pena e senza capire come mai un essere sottomesso alla morte potesse non sottomettersi a quella degli altri, come a un evento del tutto naturale. Il bambino pianse molto e nel suo risentimento disse alla fata che dal momento che gli aveva riportato solo una brutta notizia avrebbe potuto esimersi dal riportargli il suo precettore. La fata alzò le spalle e lo lasciò indispettita. Bonus invece non se la prese affatto, si sedette presso il bambino e pianse, vedendolo piangere. Accorgendosi di ciò, il bambino, che era d'animo molto sensibile, l'abbracciò e gli disse che voleva davvero trattenerlo presso di sé e dargli ospitalità nella sua casa, a condizione però che non gli parlasse più dello studio. In effetti, disse il precettore Bonus, visto che staremo qui per sempre, non so bene a che cosa potrebbe servire lo studio. Preoccupiamoci di vivere. Ammetto di essere attaccato alla vita, e se voi volete darmi retta, mangeremo qualcosa. È così tanto tempo che digiuno. Proprio in questo momento il cane tornava dalla caccia con una bella lepre tra i denti. Il cane familiarizzò con il precettore e gli cedette volentieri il suo bottino, che Bonus si sentì in dovere di cucinare. Ma le fate, che lo sorvegliavano, gli procurarono un'allucinazione terrificante. Appena incominciò a spelare la lepre, questa ingrandì e assunse il suo aspetto, cosicché gli parve di essere lui lo scorticato. In preda all'orrore, depose l'animale sulle braci roventi, sperando di liberarsi dall'incubo col sentire il profumo della carne arrostita. Ma era ancora lui a bruciare, contraendosi orrendamente, e gli parve anche di sentire che la propria carne bruciasse veramente. Si ricordò allora che gli uomini l'avevano condannato a essere arso vivo e, comprendendo che non si dovevano irritare le fate, restituì la carne al cane e ci rinunciò per sempre. Allora uscì fuori per raccogliere delle radici, dei frutti e dei semi e se ne fece una provvista così abbondante per l'inverno che la casa ne fu piena e quasi mancava lo spazio necessario per distendersi a dormire. In seguito, temendo che le fate potessero derubarlo e credendosi abbastanza esperto di magia per incutere loro rispetto, impastò con della creta alcune figurine simboliche che dispose sul tetto. Ma il suo sapere era falso e i suoi simboli così rozzi che le fate non prestarono loro altra attenzione che quella sufficiente per trovarli molto brutti e per riderne. Vedendole di buon umore, egli osò domandare dove avrebbe potuto trovare degli attrezzi da lavoro senza i quali gli sarebbe stato impossibile, diceva, combinare qualcosa di buono. Esse allora lo condussero in una grotta, dove avevano ammassato alla rinfusa una grande quantità di oggetti rubati durante le loro sortite e dimenticati lì dopo che la curiosità era venuta meno. Bonus si meravigliò di trovare utensili di tutti i tipi e oggetti preziosi mischiati a cianfrusaglie senza nessun valore. Prima di tutto cercò una pentola, dei piatti e delle posate. Scovò il tutto in un mucchio di gioielli e stoffe pregiate. Trovò anche dei sacchi di farina, della frutta secca, una brocca e una bacinella. Non concesse che un rapido sguardo ai libri e al materiale per scrivere. Pensiamo al corpo prima di tutto, si disse. Lo spirito domanderà più tardi il suo cibo, se ne avrà bisogno. Fece con Ermanno numerosi viaggi alla grotta che le fate consideravano il loro museo e che egli chiamava semplicemente il magazzino. Vi trovarono tutto ciò che serviva per fare il burro, il formaggio e i dolci. Ermanno scovò molte leccornie che si portò via. E Bonus, dopo vari esperimenti, imparò a fare dolci così squisiti da far leccare le dita a un vescovo. E nella piacevole occupazione di dormire e mangiar bene, il precettore dimenticò i suoi giorni di miseria e non insistette presso il giovane principe per insegnargli a leggere. La regina delle fate venne a controllare la situazione e siccome molte compagne erano scontente di vedere due uomini invece di uno prender sede nei loro domini, disse: «Non capisco che cosa vi preoccupi, quest'uomo è vecchio e non vivrà che il tempo necessario all'infanzia di Armanno. Per di più è un animale curioso e la cura che si prende del suo corpo mi sembra meriti uno studio. Guardate che cosa inventa quest'uomo per conservarsi. Ma il suo abbigliamento non è dignitoso e io voglio che sia vestito convenientemente». Chiamò Bonus e gli disse: «I tuoi vestiti consumati e quelli stracciati del bambino turbano la mia vista. Occupati un po' meno di impastare dolci e di inventare creme. Se non sei capace di cucire e di filare, cerca nella grotta qualche abito nuovo e che io non vi veda più con questi stracci addosso». «Sicuramente, signora», rispose il precettore, nascondendo la paura sotto un tono galante. «Sarà fatto ciò che voi volete e se la mia persona può in questo modo diventarvi gradevole, non risparmierò nessuno sforzo per raggiungere questo risultato». Purtroppo non trovò abiti per il suo sesso nel magazzino delle fate. E non sapendo che fare, pregò la vecchia Milit, che era una fata un po' tonta, avendo bevuto la coppa quando stava molto vecchia per rimbambire, di aiutarlo a vestirsi. A Milit piaceva essere interpellata e siccome nessuno lo faceva mai, prese in amicizia il precettore e gli donò uno dei suoi abiti nuovi, che era di lana buona e pesante, come del resto il cappuccio orlato di rosso. E così, vestito da donna, Bonus sembrava essere una grande fata molto brutta. La piccola Regis, che passava di lì per caso, lo trovò così buffo che rise per un'ora, ma continuando a ridere, lo convinse a condurre il bambino che voleva anche lei vestire con uno dei suoi abiti e quando l'ebbe a portata di mano, lo lavò, lo profumò, gli aggiustò i capelli, lo incoronò di fiori, gli mise al collo un filo di perle, gli fece indossare una cintura d'oro con cui fissò in vita le 1.000 pieghe della tunica rosa. E lo trovò così bello, agghindato in questo modo, che lo volle far cantare e ballare per ammirare la sua opera. Anche Ermanno si trovava bello e si sentiva bene in quest'abito fragrante, ma non sapeva obbedire e si rifiutò di danzare, il che mandò la piccola Regis su tutte le furie. Gli strappò la collana, lacerò la veste e, da fatta bizzarra qual era, gli arruffò i capelli, lo imbrattò con il succo di una bacca nera e lo lasciò lì, avvilito, quasi nudo, furibondo di non poter restituire a questa pazza le umiliazioni di cui lo aveva subissato. Bonus, intanto, vedendo la piccola Regis in collera, s'era messo in salvo. Ermanno, raggiungendolo, lo rimproverò di essere fuggito di fronte a una fata così piccola e di non avere più coraggio di una gallina. «Comunque non avrei potuto difendervi», rispose il precettore. «Vedete bene che anche voi non avete potuto difendervi. Le fate, anche quelle che non sono più grandi di una mosca, sono esseri molto pericolosi e la cosa migliore è sopportare i loro capricci senza rispondere alle provocazioni. Quanto a me, che devo essere bruciato a fuoco lento se esco di qui, sono ben deciso ad assecondare le stravaganze di queste signore e se mi avessero ordinato di danzare avrei obbedito e fatto anche una capriola in sovrapprezzo». Il bambino capì che il suo precettore aveva ragione, ma non per questo smise di giudicarlo male, perché la ragione non consiglia sempre le cose più belle. Corse a cercare Zilla per raccontarle le sue disavventure e farle sapere in che modo lo si era malmenato. Zilla arrossì d'indignazione e lo condusse davanti alla regina per protestare contro Regis. Ti sei meritato quello che ti è successo, disse la regina a Ermanno. Tu rappresenti così male ai nostri occhi la dignità che la tua razza si attribuisce, che qui non vuol crederci proprio nessuno. Tu vivi meno nobilmente di un animale selvatico, perché quello si accontenta di ciò che trova, e voi, tu e il tuo maestro, non vi preoccupate d'altro che di stuzzicare il vostro appetito per aumentare la fame naturale. Non pensate a nutrire il vostro spirito più di quanto fareste se foste fatti solo di una bocca e di un ventre. Siete veramente dei miserabili e non mi interessate affatto. Il bambino restò mortificato e Zilla capì ancora una volta che la lezione della regina era rivolta a lei più che al bambino. Disse a Ermanno che se voleva istruirsi, lei gli avrebbe prestato tutta l'attenzione possibile. E portandolo via con sé, scelse per lui una tunica di lana bianca con cui lo vestì in modo più virile di quanto non avesse fatto Regis. E poi gli donò un completo di pelle per correre nella foresta e delle belle armi per difendersi dagli animali che avrebbe potuto costituire una minaccia quando l'avessero visto diventare grande. Ma gli fece giurare di non versare mai sangue che per difendere la propria vita. Gli donò poi un libro, accompagnando il dono col dire che quando fosse riuscito a leggerlo, il libro gli avrebbe insegnato delle belle cose che lo avrebbero reso felice. Ermanno andò a trovare Bonus e con un calcio veramente eroico gettò nel fuoco il dolce che il precettore stava preparando. Non voglio più essere disprezzato, gli disse. Non voglio più fare un dio del mio ventre. Voglio essere bello, fiero, voglio ricevere dei complimenti. Ti ordino di insegnarmi a leggere. Voglio imparare entro domani. Bonus obbedì con un sospiro. Ma siccome il giorno dopo non sapeva ancora leggere, il bambino si indispettì e gli disse: Tu non sei capace di insegnarmi. Forse non sai nulla, nemmeno tu. Se è così, tieniti pure addosso questi abiti da fantesca che ti si addicono. Passa il tuo tempo in cucina e fatti chiamare Comare Bona. Io verrò per il pranzo e per dormire nella tua locanda. Ma andrò a cercare altrove l'onore della mia razza e il sapere che rende felici. Detto ciò, uscì col suo cane, lasciando il precettore stupefatto di sentirlo parlare così. Quando Zilla vide arrivare il ragazzo, deciso e pronto a obbedire, pieno d'orgoglio e di ambizione, benché ripetesse senza capirle le parole che aveva sentito dire alla regina e da lei stessa, si meravigliò nel vedere l'effetto profondo dell'orgoglio sulla sua giovane anima e volle pertanto provare a istruirlo lei stessa. Lo trovò così attento e intelligente che ci prese gusto e a poco, passando ogni giorno sempre più tempo vicino a lui, arrivò al punto di non poter più fare a meno della sua compagnia. Quando brillava il sole, passeggiava con lui, insegnandogli il segreto delle cose divine nella natura, la storia della luce e il suo matrimonio con le piante, il mistero delle pietre e il linguaggio delle acque, e il modo per farsi capire dagli animali più ribelli all'uomo, di farsi seguire dagli alberi e dalle rocce, di evocare con il canto le potenze immateriali, di far sprizzare scintille dalle proprie dita, di conversare con gli spiriti nascosti sottoterra. Al chiar di luna gli insegnava il linguaggio simbolico della notte, la storia delle stelle e come cavalcare le nuvole sognando. Gli insegnava a separarsi dal suo corpo e a guardare con occhi magici che gli faceva trovare nelle gocce di rugiada del prato. Gli diceva anche di che cosa è fatta la Via Lattea e qualche volta lo fece uscire dal suo spirito per portarlo a vagare negli spazi muti sopra le più alte montagne. Quando il vento, la neve e la pioggia minacciavano di appesantire l'anima del suo discepolo, lo portava nelle grotte misteriose, dove le fate che custodiscono il fuoco mistico permettevano che partecipasse a qualcuna delle loro riunioni. Là imparò a parlare con le anime dei morti, a leggere nel pensiero degli assenti, a vedere attraverso le rocce più dure, a misurare le altezze del cielo senza guardarle, a pesare terra e pianeti con una bilancia invisibile e mille altri segreti meravigliosi che per le fate sono giochi da ragazzi. Quando Ermanno ebbe appreso tutte queste cose, aveva già 15 anni ed era così bello, così amabile, così istruito e sempre così gradevole a vedersi, che se le fate fossero state capaci di amare sarebbero state tutte innamorate di lui. Ma i loro impulsi sono così ben regolati dall'impossibilità di morire che non possono aspirare a un sentimento umano un po' profondo. La stessa amicizia è loro negata come sentimento capace di procurare sofferenza e quindi di turbare l'equilibrio perfetto e monotono della loro esistenza. Ciò che resta della loro origine umana è perfettamente commisurato alla possibilità di commuoversi senza dolore e senza durata. Così, esse sono impulsive e irascibili, ma dimenticano in fretta e dopo stanno ancora meglio. Sono spesso capricciose e gelose, ma essendo sempre libere, se vogliono di dimenticare e di deporre la loro irritazione o il loro dispetto quando ne sono stanche, si agitano per niente e per niente si rallegrano. Non conoscono la felicità e di conseguenza non la cercano. Che cosa potrebbero farsene? Possiedono la scienza. E non ne godono alla nostra maniera, perché non la usano che per preservare se stesse dal male e dall'ignoranza, senza conoscere la gioia di preservarne gli altri. Quando ebbero istruito il giovane Ermanno, se ne compiacquero perché egli era per loro una compagnia e quasi un uguale. Ma ad ogni istante si dicevano l'una con l'altra per impedirsi di amarlo: non dimentichiamoci che deve morire. Così, se lui faceva un complimento a una, l'altra metteva il broncio e bisognava che la consolasse facendole un complimento più bello. Ciò non prova che fossero sciocche o vuote, ma esse si vantano molto del fatto di avere conquistato, grazie alla scienza, un modo di vivere che le rende inaccessibili alle nostre pene. La più gelosa di tutte era Zilla, perché aveva dei diritti su Ermanno. O credeva di averne, e quando lui apprezzava l'allegria di Regis o la saggezza della regina, Zilla diventava fredda con lui e si ricordava per un po' che davanti a lei c'era un figlio degli esseri umani. Tuttavia, Ermanno l'amava più di tutte le altre e la considerava come sua madre, ma c'erano in lui riserbo e orgoglio e si parlava così poco intorno a lui il linguaggio dell'amore che egli non avrebbe osato nemmeno immaginare di amare qualcuno più di se stesso. Andava di tanto in tanto a trovare Bonus, che continuava a inventare ghiotte pietanze e che non stava poi male nella sua solitudine, salvo che le fate si divertivano di tanto in tanto a stuzzicarlo. Esse gli procuravano ogni sorta di allucinazioni ridicole. Talvolta si credeva donna e sognava che un etiope volesse venderlo ai califfi di Oriente. Allora si nascondeva tra le rocce e pativa la fame, cosa che costituiva per lui una grossa sofferenza. Altre volte Regis gli faceva credere di essersi innamorata di lui e gli fissava degli appuntamenti, dove poi veniva sbeffeggiato e percosso da mani invisibili. Tutto ciò era per punirlo di aspirare alla magia e di tentare incantesimi puerili e grossolani. Per il resto egli stava bene, perché le fate in fondo sono buone e quando l'avevano stancato o umiliato gli donavano più sonno e più appetito come per risarcirlo. Ermanno cercava di interessarsi alla sua sorte, ma quando lo vedeva così egoista e così materialista, si allontanava da lui con disprezzo. L'unico essere che gli dimostrava amicizia autentica era il suo cane e qualche volta, quando gli occhi dell'animale fedele sembravano dirgli ti amo, Ermanno, senza sapere perché, piangeva. Ma il cane era diventato così vecchio che un giorno non riuscì più ad alzarsi sulle zampe per seguire il suo padrone. Ermanno, disperato, corse a cercare Zilla. Il mio cane sta per morire, le disse. Bisogna impedirlo. Non posso farlo, rispose la fata. È necessario che tutto muoia sulla terra, tranne le fate. Prolunga almeno la sua vita di qualche anno, ribatté Ermanno. Tu puoi fare cose più difficili. Se il mio cane muore, che sarà di me? È l'essere che io amo di più sulla terra, dopo di te, e non posso privarmi della sua amicizia. Parli come un folle, disse la fata. Tu puoi amare il tuo cane, visto che è inevitabile che l'essere umano ami sempre follemente qualche cosa, ma io non voglio che tu dica che mi ami, dal momento che il tuo cane ha diritto alle parole che tu usi per me. Se il tuo cane muore, andrò a cercartene un altro e l'amerai altrettanto. No, disse Ermanno, io non voglio un altro dopo di lui, e siccome non devo amarti, non amerò nient'altro che la morte. Il cane morì e il ragazzo fu inconsolabile. Bonus non comprese minimamente il suo dolore e le fate lo ignorarono con disprezzo. Allora Ermanno, colpito, capì ciò che gli mancava nel regno delle fate. Viveva lì, vezzeggiato, istruito, protetto e colmato di beni, ma non era amato e non poteva amare. Zilla cercò di distrarlo conducendolo con sé nei recessi più belli della montagna. Gli permise di mettere piede nei palazzi meravigliosi che le fate costruiscono e distruggono in un'ora. Gli mostrò piramidi più alte dell'Himalaya e ghiacciai di diamante e di rubino, castelli dalle mura leggiadre come fiori intrecciati, porticati e colonnati di fuoco vivo, giardini di gemme preziose, dove gli uccelli cantavano melodie da rapire l'anima e i sensi. Ma Ermanno ne sapeva già troppo per prendere queste cose sul serio e un giorno disse a Zilla: queste cose non sono altro che sogni, ciò che tu mi mostri non esiste. Ella cercò di incantarlo con un sogno più bello di tutti gli altri. Lo portò sulla luna. Ci stette un attimo volentieri e poi volle andare sul sole. Lei proferì altre formule magiche e andarono sul sole, ma Ermanno non credette più a ciò che vedeva. Ogni volta diceva alla fata: tu mi fai sognare, non mi fai vivere. E quando si svegliava le diceva: io non ricordo nulla, è come se non avessi visto nulla. Lo prese la noia. La regina notò che era pallido e depresso. Visto che non puoi amare il cielo, gli disse, cerca almeno di amare la terra. Ermanno rifletté su queste parole. Si ricordò che una volta Zilla gli aveva donato del grano, un aratro, un asino e un mulo. E si mise ad arare, a seminare e a piantare, e provò piacere nel vedere come la terra è feconda, docile e materna. Bonus fu ben contento di avere del grano da macinare per fare il pane tutti i giorni. Ma Ermanno non capiva il piacere di mangiar solo. E dopo aver visto che cosa la terra può rendere a chi le presta cura, non le chiese più niente e tornò a ciò che essa gli forniva gratuitamente. La regina gli disse: il torrente non è sempre limpido, da quando ci sono stati gli ultimi temporali, travolge e rompe le sponde e trasporta sassi e fango laddove ti piaceva andare a nuotare. Vedi di governarlo, cerca di amare l'acqua, dato che non ami più la terra. Ermanno governò il corso del torrente e gli restituì tutta la sua bellezza, la sua voce armoniosa, il suo agile corso, il suo dolce riposo nella piccola conca dei laghetti. Ma un giorno lo trovò troppo sottomesso perché non aveva più niente da ordinargli. Distrusse le chiuse che aveva costruito e gli piacque vedere l'acqua riprendere la sua libertà e ricominciare a fare i suoi danni. Che capriccio è questo? Gli chiese Zilla. Perché, rispose Ermanno, dovrei essere tiranno dell'acqua. Non potendo essere amato, non ho bisogno di essere odiato. Zilla trovò suo figlio ingrato e per la prima volta dopo molti secoli provò un malcontento che la rese seria. Voglio dimenticarlo, disse alla regina, perché mi dà più pensieri di quanto non meriti. Permettimi di farlo uscire di qui e di restituirlo alla società dei suoi simili. Tu me l'avevi ben detto che me ne sarei stancata. E la vecchia Trolli aveva ragione di biasimare la mia protezione e le mie carezze. Fa ciò che vuoi, disse la regina, ma sappi che questo ragazzo adesso sarà infelice fra gli esseri umani e che tu non lo dimenticherai così in fretta come speri. Noi non dobbiamo distruggere nulla e tuttavia tu hai distrutto qualcosa nella sua anima. Che cosa? chiese Zilla. L'ignoranza dei beni che non può possedere. Prova ad esiliarlo e vedrai. Che cosa mai dovrei vedere se non voglio più vederlo? Lo vedrai dentro di te, perché lui diventerà un rimprovero e questo fantasma griderà giorno e notte vicino a te. Zilla non capì che cosa le diceva la regina. Non avendo mai fatto del male, anche prima di aver bevuto la coppa, ella non temeva i rimorsi, non sapendo che cosa potessero essere. Libera di agire a modo suo, disse Ermanno. Tu non ti trovi bene qui. Vuoi tornare tra i tuoi? Mille volte Ermanno aveva desiderato quello che adesso lei gli proponeva e mai aveva osato dirlo, temendo di apparire ingrato e di offendere Zilla. Sorpreso dalla sua offerta, dubitava che facesse sul serio. La mia volontà, le rispose, sarà la tua. Ebbene, ella disse, va a cercare Bonus e vi farò uscire dal nostro regno. Fu impossibile convincere Bonus a lasciare la valle delle fate. Andò a gettarsi ai piedi della regina e le disse: Vuoi che io vada a finire la mia vita fra i supplizi? Do forse fastidio a qualcuno qui? Non vivo che di vegetali e di miele. Rispetto i vostri misteri, non mi avvicino mai ai vostri antri segreti. Lasciatemi morire dove sto bene. E gli fu consentito di restare. Il giovane Ermanno, che era diventato un uomo, dicendo che non aveva bisogno del suo precettore, partì solo con Zilla. Quando si trovarono a dover passare dallo spaventoso sentiero fil di roccia, dove nessun essere umano dall'esterno avrebbe mai osato avventurarsi, ella voleva aiutarlo con un incantesimo per evitargli le vertigini. No, le disse lui, io conosco questa strada, l'ho fatta più di una volta e avrei potuto fuggire da molto tempo. Perché dunque sei rimasto tuo malgrado? Disse Zilla. E Ermanno non rispose. Era arrabbiato che la fata gli facesse questa domanda. Avrebbe dovuto indovinare che il rispetto e l'affetto erano le uniche ragioni che lo avevano trattenuto. Zilla capì la fierezza del suo silenzio e cominciò a diventare triste per il sacrificio che imponeva a se stessa, ma aveva deciso e continuò a camminare davanti a lui. Al momento di separarsi, gli consegnò l'oro che una volta aveva rubato all'araldo di suo padre e che aveva offerto al bambino come un giocattolo. Allora lo aveva disprezzato e anche questa volta sorrise e lo prese senza piacere. Non sapresti cavartela senza questa garanzia, gli disse la fata. Qui non avrai il diritto di prendere nulla, dovrai osservare le condizioni dello scambio. Ermanno non capì. Ella aveva sdegnosamente evitato di istruirlo delle leggi e dei costumi della società umana. Era troppo tardi per avvertirlo di tutto ciò che stava per minacciarlo in questo mondo nuovo. D'altra parte, Ermanno non l'ascoltava. Era come ebbro, perché la sua anima era impaziente di prendere il volo. Ma la sua eccitazione era piena di amarezza e faceva fatica a trattenersi dal piangere. In questo momento, se la fata gli avesse detto «Vuoi tornare con me?», l'avrebbe amata e benedetta, ma ella difendeva il proprio cuore da ogni debolezza. Aveva gli occhi asciutti e parlava freddamente. Ermanno si rendeva conto che non aveva amato altro che un'ombra e, facendo violenza a se stesso, le disse addio. Quando lei sparì, si sedette e pianse. Zilla, voltandosi indietro, lo vide ed era pronta a richiamarlo, ma non doveva forse dimenticarlo, visto che non poteva renderlo felice. Fine della prima parte.